Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, sempre in diretta dal padiglione Cibus Italia qui al Cibus e Italia qui all'Expo di Milano, vicino al padiglione del Giappone, così diamo sempre il nostro riferimento di cosa ci occuperemo oggi e quindi che cosa ci riserva la giornata economico-finanziaria. Vi sarà chiaramente anche il punto di quanto emerso, come vi hanno già ricordato i nostri GR, dalle dichiarazioni di questa mattina del Presidente dell'Unione Europea Juncker. Era il suo primo intervento, diciamo, sullo Stato dell'Unione, ma è chiaro che tutto il tema si è giocato sulle politiche per la gestione dell'emergenza migranti e rifugiati. E Juncker ha ricordato anche una proposta per aiutare l'Africa nel, diciamo, in loco, utilizzando fondi europei da 1.800.000.000 provenienti dalle risorse comuni. Per quello che riguarda però il tema, diciamo, che può sembrare strano, oggi c'è un rapporto anche dell'organizzazione non governativa Oxfam Italia di Oxfam International sull'andamento delle disuguaglianze in Europa. Ora invito tutti a non fare facili demagogie e populismi, perché sono due cose molto diverse. Un conto è quello, è la gestione dei flussi migratori e dell'emergenza dei profughi in questo momento, dei rifugiati in questo momento. Altra cosa è il rapporto di Oxfam, in cui si evidenzia come all'interno dell'Europa siano aumentate dagli anni della crisi, dal 2008 in poi, le disuguaglianze, ma soprattutto si mette in evidenza come queste disuguaglianze sono anche frutto delle politiche economiche adottate dall'area euro, in particolar modo l'austerità in questi anni. Per cui non si tratta di un impoverimento così che è piovuto solo dal cielo. Certo che la crisi economico-finanziaria è stata la grande molla per questo impoverimento, il grande fattore di aumento anche delle disuguaglianze, ma le politiche fiscali, e lo dice esplicitamente il rapporto, ne parleremo fra poco, contribuiscono a aumentare o contribuiscono a ridurre le disuguaglianze. Faccio un esempio, ripeto, poi ne parleremo ampiamente, ma il sistema fiscale e previdenziale svedese favorisce una riduzione delle disuguaglianze di reddito del 53%, mentre il sistema fiscale italiano, che è tra gli ultimi posti nella classifica dei sistemi fiscali quanto a capacità di ridurre le disuguaglianze, ha permesso nel 2013 una riduzione della disparità di reddito di solo il 34% contro il 53% della Svezia, che chiaramente è il caso più virtuoso. Di questo parleremo, perché il rapporto di Oxfam fa notare, il titolo domani probabilmente sarà 342 miliardari in euro in Europa e 123 milioni di persone a rischio povertà, e poi insiste anche sul fatto che il 20% degli italiani detiene il 60% della ricchezza nazionale netta, mentre al 20% degli italiani più poveri va solo lo 0,4% della ricchezza nazionale netta. E poi chiede, entrando anche sui temi politici, noi su questo siamo assolutamente d'accordo, stop all'austerità come unica linea guida delle politiche economiche europee e un sistema fiscale, diciamo, che deve a rispettare quello che prevede anche la nostra Costituzione, cioè la progressività nella tassazione. E di questo parleremo anche di quanto evidenziato dal Sole 24 Ore anche oggi. Già ne abbiamo parlato venerdì, Sole 24 Ore aveva in prima pagina il cosiddetto progetto di Bad Bank, a cui starebbe lavorando il governo per alleggerire i bilanci bancari dalle sofferenze, dai prestiti che non possono essere più sostanzialmente non possono più tornare indietro, prestiti soprattutto alle imprese, e quindi un progetto che prevederebbe la creazione di una società che emette obbligazioni garantite dal Ministero del Tesoro e con i fondi raccolti acquista i crediti in sofferenza delle banche. Il fatto che i crediti vengano in qualche modo prezzati, dunque scambiati a prezzi di mercato, consentirebbe forse di aggirare il divieto di aiuti di Stato, perché altrimenti diventerebbe un aiuto di Stato alle banche. Oggi su Sole 24 Ore trovate anche un'altra anticipazione di quello che sono i risultati del nuovo esame della Banca Centrale Europea sui requisiti patrimoniali delle banche, leggermente più severo questo esame rispetto alle precedenti verifiche. E appunto, come anticipato oggi da Sole 24 Ore, tutte le banche italiane, ad eccezione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, avrebbero superato il nuovo esame quanto ai requisiti patrimoniali. Però vale la pena far notare che la maggior parte dei 13 istituti esaminati, perché questo è il portato del fatto che dopo la riforma le banche principali dell'area euro vanno sotto la vigilanza diretta della BCE. Dicevo, la maggior parte dei 13 istituti analizzati è stata inserita nella classe 3, per cui il voto più alto è 1, il voto più basso è 4, diciamo che hanno avuto la sufficienza ma non molto di più. Solo Intesa San Paolo compare nella classe 2, adesso non voglio entrare in dettaglio, ma insomma l'equity tier 1 ratio è del 13,5%. In classe 3 si trovano le altre: UBI Banca, Mediobanca, Banco Popolare, Popolare Emilia Romagna, Popolare di Milano, Popolare di Sondrio, Unicredit e Icrea. Nella classe 4 compaiono, quindi proprio al limite della sufficienza, Monte dei Paschi e la Cassa Premio di Genova, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Però i valori riscontrati in Veneto Banca e Popolare di Vicenza impongono una ricapitalizzazione. Va detto che sia Veneto Banca che la Pop Vicenza, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, hanno già annunciato l'aumento di capitale, quindi di fatto non dico che sapessero i dettagli, ma sapevano che questo aumento di capitale per aumentare il patrimonio sarebbe stato richiesto alla Banca Centrale Europea. E anche di questo parleremo. La borsa, come sempre, in questo momento Piazza Affari sostanzialmente guadagna l'1,20%, mentre da questo punto di vista Francoforte e Parigi guadagna l'1,90%, Francoforte è in rialzo dello 0,80%, per quello che riguarda l'America siamo a un rialzo dello 0,26%. Tra i titoli segnalo molto bene Buzzi Unicem in più 3,5%, Campari più 3,20%, Telecom Italia più 2,90%, Unicredit più 2,5%, UbiBanca più 2, Mediaset più 1,80% come Eni e Saipem, Generali più 1,70% come Prismian e Fiat Chrysler. Chi perde? Soprattutto un titolo, ST Microelectronics cede il 4,5% e i vertici hanno espresso preoccupazione per la situazione in Asia. Ci occuperemo anche della situazione in Asia, perché questa mattina nuovi forti rialzi delle borse asiatiche hanno contraddistinto la chiusura. Tokyo addirittura ha fatto più 7,7%, e con un rialzo che è il più forte in una giornata da 7 anni a questa parte. Shanghai ha chiuso in rialzo del 2,30%, Shenzhen del 3,30%. C'è ottimismo per la stabilizzazione del mercato cinese. Ce ne occuperemo tra pochi minuti. Rapidamente le altre notizie in breve, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. E poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo, come dicevo, dalle altre notizie in breve, come facciamo sempre. Oggi, diciamo, devo dire che la maggior parte delle notizie fanno parte dei nostri approfondimenti. C'è stato però l'intervento, l'audizione al Senato del numero uno dell'ENI, Claudio Descalzi, che ha riguardato la scoperta, che abbiamo ampiamente coperto anche noi, del maxi giacimento in Egitto. Allora, ha detto Descalzi che sotto il maxi giacimento di Zohr trovato dall'ENI nelle acque di fronte all'Egitto probabilmente ce n'è un altro, forse di condensati o petrolio. Mi fa impazzire perché le agenzie traducono oil come olio. Beh, non penso che vi sia l'olio sotto il mare egiziano, ma il petrolio. La speranza, ha aggiunto Descalzi, è che i volumi possano aumentare, anche se siamo già molto contenti così. E poi ha precisato che i costi dello sviluppo del giacimento di gas che l'ENI ha trovato in Egitto possono rimanere al di sotto dei 10 miliardi di euro, a costi di sviluppo non altissimi, sono pozzi semplici. Il ministro egiziano ha già parlato di 6-7 miliardi, ma possiamo pensare a un ordine di grandezza di questo tipo, è comunque inferiore ai 10 miliardi di euro. L'indicatore dei consumi di Confcommercio registra a luglio una crescita dello 0,4% rispetto a giugno, siamo chiaramente in Italia, quindi c'è un buon dato sui consumi al massimo dal 2010, più 2% rispetto a un anno prima. L'aumento congiunturale dello 0,4% a luglio, la Confcommercio rileva 44.000 occupati in più. Devo dire che erano tutti temi che ci aveva già anticipato il direttore del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, nostro ospite, la settimana scorsa. E mentre per quello che riguarda la disoccupazione italiana, vale la pena segnalare come l'OCSE oggi rilevi come l'Italia è il paese europeo in cui la disoccupazione è calata in modo più marcato, cioè è calata di più a luglio, la contrazione dello 0,5%. È pari a circa 143.000 disoccupati in meno. Nel resto dell'area euro la disoccupazione è scesa in media dello 0,2 punti al 10,9, la nostra resta più alta della media al 12%. In Germania il dato è rimasto fermo, ma la Germania ormai ha una disoccupazione sotto il livello fisiologico, quasi al 4,7%. In Francia è lievemente aumentato il tasso di disoccupazione al 10,4%. Allora, partiamo dal primo tema che tiene assieme, da un lato, ma ieri ne abbiamo ampiamente parlato, c'erano già tutti gli elementi per fare un approfondimento, e mi riferisco al piano europeo di smistamento, chiamiamolo così, dei flussi, dei migranti e dei rifugiati, e il fatto che appunto metà di questi verranno ricollocati in altri paesi, l'impegno della Germania che abbiamo ampiamente commentato in maniera positiva, i nostri ospiti ieri ricordavano come in questo caso si possa parlare di una Germania che ha assunto la leadership e ha vissuto e ha in qualche modo appreso appieno cosa significa esercitare una leadership, spiazzando anche molti altri governi europei ben più timidi. Alcuni fanno notare che anche il governo italiano prima della posizione tedesca fosse più timido nella gestione dell'accoglienza dei rifugiati. E oggi su questo è intervenuto appunto il Presidente della Commissione Europea Juncker, che ha detto: non aboliremo Schengen e presenteremo nei primi mesi del 2016 un pacchetto sull'immigrazione legale. E poi ha detto: attenzione, i muri non fermeranno i rifugiati, occorre un'azione comune. Gli stati devono rispettare le regole, ci sono 160.000 rifugiati, persone da collocare, da ricollocare nei diversi paesi, sono quelle che attualmente sono tra Grecia, Italia e Ungheria. Sentiamo questo passaggio di Juncker. We need more Europe in our asylum policy. Abbiamo bisogno di più Europa nella nostra politica di asilo. Abbiamo bisogno di più Unione nella nostra politica per i rifugiati. Una vera politica di asilo e per i rifugiati richiede che la solidarietà sia permanentemente stabile e solida nel nostro modo di approcciare la questione e nelle nostre regole. Ecco perché oggi la Commissione sta anche proponendo un meccanismo permanente di redistribuzione che ci permetterà di affrontare situazioni di crisi in modo più agevole in futuro rispetto a quanto è stato in passato. Una comune politica di asilo e per i rifugiati richiede che gli Stati rivedano le loro politiche, sia di integrazione che di inclusione. La Commissione è pronta ad esaminare come i fondi europei possono sostenere questi sforzi. Sono assolutamente favorevole che i richiedenti asilo lavorino e guadagnino soldi, mentre le pratiche delle loro domande sono in corso. E su questo, al di là di qualche contestazione, tutti d'accordo. Berlino, il governo tedesco, ha detto di appoggiare tutte le proposte del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, siamo assolutamente in linea con Juncker. Un distinguo l'ha fatto invece il nostro Ministro degli Esteri Gentiloni, che ha detto sulla crisi dei migranti, il Presidente della Commissione Europea Juncker ha fatto stamani proposte che hanno uno spirito giusto ma che continuano a non prendere sufficientemente in considerazione il carattere permanente della sfida che abbiamo davanti. Ripeto, senza fare facili populismi e demagogie, un conto è la gestione di una crisi che non è però una crisi, diciamo così, momentanea, soprattutto finché non si risolveranno determinate situazioni in Medio Oriente, in Siria in primo luogo, dopodiché sappiamo che la pressione, come raccontavano ieri i nostri ospiti, di carattere demografico dall'Africa ci sarà. Ecco perché è interessante anche la proposta di Juncker di utilizzare 1,8 miliardi di fondi già presenti in Europa per politiche di sviluppo dell'Africa. Vale comunque la nota che facevamo nelle settimane scorse: l'Europa si è svegliata solo quando si è svegliata la Germania e solo quando i rifugiati, i profughi sono arrivati alle porte dell'Ungheria e prima, diciamo, della Macedonia. Finché il problema erano gli sbarchi in Italia, Lampedusa e Mineo, ci hanno lasciato parecchio soli, lì forse bisognava anche alzare un po' di più la voce. Ma detto ciò, guardiamo avanti. Questo è un tema di emergenza che può diventare anche un'emergenza strutturale. Non sto dicendo che tutti i migranti sono uguali, è chiaro che l'asilo politico è una cosa, lo status di rifugiato è una cosa, però che il tema resti, che non possiamo, siccome decidiamo che un conto è migranti, un conto è rifugiati, le pressioni non mancheranno finché non si stabilizza il Nord Africa e nello specifico la Libia. Non avremo neanche possibilità, diciamo, di interloquire con un governo che piaccia o non piaccia, ma almeno controlla la regione. E poi c'è un altro tema invece: che cosa è successo all'Europa? Io lo so che a livello, diciamo, populistico e politico viene spesso usato come tema contrario alle politiche di accoglienza. Ci sono i poveri anche in Europa, pensiamo prima a loro. In realtà il rapporto di Oxfam di oggi, che è il rapporto che riguarda appunto le disuguaglianze in Europa, ha il pregio, a mio avviso, di far notare come parte, diciamo, dell'aumento delle disuguaglianze europee e quindi dell'aumento della differenza tra i pochi felici, gli happy few, e i molti poveri, sia dovuto alle politiche europee stesse. Quindi non c'entra solo l'economia internazionale, non c'entrano in questo caso i migranti. Allora, andiamo sulle cifre. 342 miliardari in Europa, beati loro, miliardari non in lire, in euro, e 123 milioni di persone a rischio povertà. Dicevamo prima, il 20% degli italiani detiene il 61% della ricchezza, un altro 20% dei più poveri ha solo lo 0,4%. Sono aumentate queste disuguaglianze. Il numero delle persone tra 2009 e 2013 che vivono in una condizione di grave deprivazione materiale è aumentato di 7 milioni e mezzo di persone nei 19 paesi dell'Unione Europea, inclusi Spagna, Irlanda, Italia e Grecia, e arrivano a un totale di 50 milioni. In Italia la percentuale di persone è aumentata di 5 punti percentuali, sono quasi 7 milioni di persone. E allora, da questo punto di vista, vale la pena notare come l'Italia sia messa anche nella classifica come disuguaglianza non benissimo. Nessun paese è immune, ma ci sono paesi come Bulgaria e Grecia che hanno il peggior risultato, ma anche paesi come Francia e Danimarca hanno visto un aumento di questa dimensione della disuguaglianza. Siamo in collegamento, la ringraziamo, con la direttrice delle campagne di Oxfam Italia, Elisa Bacciotti. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, dottoressa Bacciotti, andiamo subito sulla ciccia, sulla parte più importante. Questo delle disuguaglianze è un tema che affrontiamo sempre. Voi avete un passaggio nel vostro rapporto in cui vi concentrate proprio sulle politiche governative, anche per dire che non è un destino ineluttabile quello di vedere aumentare la disuguaglianza sociale in un paese solo perché c'è stata la crisi fuori. Esattamente, l'aumento della diseguaglianza, che è un fenomeno che osserviamo in moltissimi paesi del mondo, all'interno di moltissimi paesi del mondo, vede anche l'Europa partecipe in questo trend e anche l'Italia, come ricordava giustamente. Ma questo, appunto, vogliamo ribadire con forza, non è un fenomeno inevitabile, non è una calamità naturale, ma è l'effetto di una scelta politica, di scelte politiche precise che sono troppo spesso effettuate tenendo in conto l'interesse di pochi e non quello di tutti i cittadini europei, magari appunto la necessità di rispettare vincoli stabiliti, insomma, in precedenza, piuttosto che la necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini. In questo senso per noi le grandi cause, diciamo, di questo aumento della diseguaglianza, ma anche dell'aumento della povertà in termini assoluti, sono sicuramente l'austerity ed un sistema fiscale non sufficientemente progressivo, ma anche con fortissime differenze fra stati membri dell'Unione Europea, differenze che avvantaggiano chi da queste differenze ci può guadagnare, insomma. Ecco, restiamo sul sistema fiscale, perché ripeto, se uno dovesse limitarsi a dire beh, c'è stata la crisi, sì, la crisi c'è stata per tutti, alcuni paesi e alcune aree, diciamo, geoeconomiche hanno risposto non aumentando in maniera significativa le disuguaglianze, altre sì. Allora, voi, se ho ben visto nel rapporto, citate in maniera molto diretta il ruolo che ha avuto l'austerity che l'Europa si è data, visto che abbiamo appena elogiato la Germania, fatemela criticare, a trazione tedesca, e come elemento, diciamo, che ha contribuito e non poco all'aumento delle disuguaglianze. Senz'altro. Ma uno potrebbe dire, dottoressa, che però se c'è l'austerity c'è per la parte più ricca della popolazione e per la parte meno ricca. Perché l'austerity e le politiche di austerità vanno a colpire la fascia, diciamo, più debole e aumentare le disuguaglianze? Perché le politiche di austerità tagliano risorse preziose che sono investite in servizi sanitari, in servizi educativi, in altri servizi di protezione sociale. E queste risorse, questi servizi sono quella tipologia di spese, sono quelle spese che più contribuiscono a riequilibrare l'eguaglianza, quindi a riequilibrare i redditi delle persone, diciamo, rispetto al mero dato del reddito di mercato. In questo senso la classifica che abbiamo elaborato, insomma, dei 28 paesi europei vede l'Italia uno dei paesi che ha un sistema fiscale che meno è capace di riequilibrare una situazione di diseguaglianza, diciamo, causata dal reddito di mercato. Di fatto noi abbiamo potuto vedere che la riduzione della disparità di reddito operata appunto dalla concessione di servizi sociali incide solo del 34% sul reddito, diciamo, delle persone. Quindi in qualche modo osserviamo in Italia e in tanti altri paesi dell'Unione Europea un sistema fiscale che non è più in grado di generare risorse che vengono reinvestite e che, diciamo, riducano la disparità e riducano le diseguaglianze. Ecco, su questo voi citate anche dei casi virtuosi, mi riferisco per esempio al sistema, voglio dire agli ascoltatori, non basta dire, è ovvio che la pressione fiscale, però la pressione fiscale, se fosse in maniera realmente progressiva, dovrebbe in realtà non influire. Invece voi citate casi in cui il sistema fiscale e previdenziale svedese abbatte di quasi la metà, cioè di oltre la metà del 53% le disuguaglianze, mentre quello italiano è solo il 34%. Non è solo un problema di tassazione, anche se la tassazione chiaramente gioca un ruolo fondamentale. Assolutamente non è solo un problema di tassazione, è un problema anche di come diciamo le risorse raccolte vengono reinvestite in servizi, appunto, di welfare, in servizi sanitari, in servizi educativi, in servizi di accompagnamento, sia politiche attive del lavoro o servizi, appunto, di tutela per chi il lavoro lo perde, no? L'austerity applicata, insomma, in Europa, in particolare, appunto, come sappiamo, anche nel nostro paese, ha di fatto ridotto appunto la capacità di impiego di queste risorse in servizi sociali, e questo ha avuto un effetto importante sulle persone che erano già in grave stato di deprivazione materiale e a rischio di povertà. Grazie, grazie anche alla direttrice delle campagne di Oxfam Italia, Elisa Bacciotti. Allora, sì, mi fate notare che anche le multe in Svezia sono in base al reddito, non solo in Svezia, anche in altri paesi. Il tema della progressività è questo. Certo che devi combattere l'evasione, nel frattempo non possiamo adesso tornare su temi che affrontiamo da anni. Qualcun altro mi scrive: togliere l'IMU sulla prima casa non aiuta. Il nostro punto è che, insomma, se un governo potesse togliere l'IMU sulla prima casa, la TASI, ridurre l'IRPEF e l'IRAP e la contribuzione e dare una compensazione sulla contribuzione, saremmo nel migliore dei modi possibili, quindi dei mondi possibili. Nessuno ce l'ha con l'IMU, dice che l'IMU che bella tassa che è, che bello che pagarla. Diciamo solo che nell'agenda che si è dato il governo ci siamo permessi di dire che forse bisogna intervenire prima su IRPEF e tasse sul lavoro, cioè il carico fiscale, il peso fiscale sull'Italia che produce, sia come lavoratori che come poi chi deve assumere questi lavoratori, e poi intervenire sull'IMU. E l'Europa chiede anche l'IVA. È una visione diversa, cioè l'IMU e l'IVA non piacciono a nessuno, ma sicuramente vanno a colpire, è solo una piccola, soprattutto l'IMU patrimoniale, se il catasto è fatto bene, cioè vanno a far pagare di più chi ha case di maggiore proprietà. E anche l'IVA, da sempre si dice, attenzione, l'IVA ha una sua progressione, per cui chi più consuma più la paga. Si è scelta un'altra strada, ripeto, a nostro avviso era preferibile partire da IRPEF e IRAP, fermo restando che sarebbe la cosa migliore sarebbe levarle o ridurle tutte, e ridurre o levare anche l'IMU. Allora, vedo che alcuni dicono: ma cos'è un intervento comunista? Ma non è un intervento comunista, insomma, facciamo notare come l'austerità non è stata uguale per tutti, no? Ecco, mettiamola così, alcuni l'hanno avuta di più e altri l'hanno avuta di meno, ma questo avviene regolarmente quando a fronte di un ciclo economico negativo, cioè di una recessione, tu vai a aumentare tasse, a ridurre i servizi, a ridurre i trasferimenti. Avviene regolarmente, cioè la prendono in quel posto, la pagano i redditi più bassi, punto. Allora, andiamo adesso sul meteo, la pubblicità, poi la borsa. Mi è andata prima della borsa la Cina, perché quello che è successo oggi in Asia potrebbe segnare un cambio di passo, e non tanto e non solo sull'andamento degli indici quanto sui ragionamenti che si fanno sulle nuove politiche del governo cinese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 Meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, parliamo di un tema che poi è uno dei temi di borsa di oggi. Di nuovo molto buona la chiusura, anche meglio di ieri, delle piazze asiatiche. Tokyo addirittura ha fatto più 7,7%, ha fatto il rialzo più forte degli ultimi 7 anni in una sola giornata. Shanghai ha guadagnato il 2,30%, Shenzhen il 3,30%, e poi è intervenuto anche il premier cinese Li Keqiang, che ha affermato oggi che la Cina non ha alcuna intenzione di spingere le esportazioni attraverso il deprezzamento del yuan. Però ci colleghiamo, e la ringraziamo anche visto l'orario, con la corrispondente del Sole 24 Ore da Pechino, Rita Fatiguso. Buonasera, buonanotte Rita. Sì, ciao, come va? Ecco. Sì. Beh, allora Rita, esatto, situazione tutto nera ovviamente. Sì, è nera perché è notte, ma o nera per le prospettive, perché abbiamo visto oggi le borse molto euforiche. Vorremmo capire qual è la scommessa che stanno facendo gli investitori nel mercato azionario sulle borse cinesi. Rita? Beh, stanno scommettendo sicuramente su questi interventi che peraltro gli sono stati annunciati, soprattutto di tagli sgravi fiscali per le imprese in modo tale da aiutarli a, come dire, a riprendersi dopo lo shock del mese di agosto. Ma sinceramente il quadro generale non è che sia, diciamo, positivo, perché scriverò domani su Sole 24 Ore una cosa che abbiamo trovato un po' in maniera così tra le notizie che c'erano sui giornali online, che ogni tanto insomma veicolano anche delle cose interessanti. È scattata una vera e propria, cioè proprio la SAFE, che è l'ente, l'autorità che gestisce i movimenti valutari per conto della banca centrale, ha firmato una circolare a tutte quante le banche per sorvegliare in maniera molto stretta tutti i movimenti di capitali, singoli conti individuali. Quindi saranno monitorati da lì in poi anche quegli strani movimenti che servivano al cinese portare via dei soldi, comprare la casa negli Stati Uniti, oppure ecco, gli affini. Quindi questo vuol dire che c'è un pericolo molto grosso di fuga di capitali, ed è un qualcosa che un po' smentisce sia le parole del governatore ad Ankara durante il G20, che è stato sostenuto che ormai era passata, la bufera era passata, la bolla era mai scoppiata, e anche le parole di Vichejian, perché se si scatena questo controllo capillare sui conti, sui movimenti proprio singoli individuali, vuol dire che il pericolo ancora nel sistema c'è. Ecco, io vi riporto questo perché il mio mestiere è fare corrispondente. Certo, per cui tu dici, da un lato Li Keqiang oggi ha tranquillizzato, non vogliamo svalutare lo yuan, tra l'altro attenzione, l'economia cinese si sta muovendo in una direzione positiva, il tasso di crescita sta oscillando in una fascia appropriata, e questa, diciamo, è la versione ufficiale del Premier. Poi tu dici, a noi risulta che invece vi siano dei controlli molto serrati, molto stringenti e molto dettagliati sui movimenti di capitale per evitare il flusso di capitali verso l'estero, e i due segnali, diciamo, sono in contraddizione. Resta però la mia curiosità e dubbio sul perché i mercati scommettano così tanto in una svolta, tanto da andare a comprare in questo modo in questi giorni, Rita? Ma diciamo che c'è anche la mano dello Stato, come tu sai, sia ieri che oggi, certo, sul finale ci sono stati grossi acquisti, e quindi questa mano invisibile sta facendo la sua parte. È un po' un gioco, circuito che si morde la coda, no? Il gatto, perché mentre per un verso manca, cioè si interviene sul mercato con i tools più differenti, diversi, e non c'è soltanto l'acquisto attraverso fondi statali di azioni sul mercato, quindi si cerca di tenere il mercato abbastanza alto, però per un altro verso la stessa banca centrale si è svenata letteralmente per andare non a sostenere il mercato, ma a mantenere, a salvare lo yuan dal baratro, perché dopo la svalutazione dell'11 di agosto non si è capito proprio più niente, e quindi questo problema del salasso di valuta estera, che chiaramente comporta mantenere il livello non troppo basso dello yuan, ha creato problemi anche di fuga di denaro, anche di questi effetti collaterali, come avevamo scritto in un pezzo di qualche giorno fa su Sole 24 Ore. Mantenere lo yuan stabile, perché deve essere mantenuto stabile, altrimenti succede quello che è successo le settimane scorse, costa tantissimo, e implica anche una sorveglianza totale su tutte le forme e gli strumenti che possono portare lo yuan a praticamente prendere altre strade. Ci saranno grossi problemi da un certo punto di vista. Abbiamo anche notato che 90 miliardi di yen erano stati immobilizzati per investimenti all'estero, e sempre la SAFE già da marzo li ha bloccati, cioè sono queste quote di investimento verso l'estero. Quindi si sta cercando in tutti i modi di evitare questa fuga o anche lo spostamento di soldi finché la situazione non si riprende. Quindi questo secondo me è un indicatore da tenere sempre presente. E quindi c'è la versione ufficiale, secondo la migliore storia, dei partiti comunisti, la versione ufficiale del partito, quella oggi espressa dal premier cinese Li Keqiang, e poi c'è la realtà un po' più sotterranea, dei soldi spesi, l'abbiamo raccontato molte volte, per mantenerlo, per non far crollare la valuta cinese, lo yuan, e anche i controlli fatti sul flusso dei capitali. Io, nel ringraziare Rita Fattiguso, chiedo in collegamento con noi da Pechino, chiedo scusa per la qualità della linea, però il telefono è pubblico e meglio di così non potevamo immaginare. Evidentemente c'è proprio un problema di collegamento strutturale, non è un telefono cellulare, lo dico a chi ci sta chiedendo informazioni sulla qualità, diciamo, della voce. Grazie Rita Fattiguso. Il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal padiglione Cibus Italia, dove ci sono gli studi di Radio 24 all'Expo di Milano. Allora, la borsa, ripeto, chiedo scusa per la qualità del collegamento agli ascoltatori, ma di più non potevamo fare. La borsa oggi positiva la giornata in tutta Europa, chiaro che hanno contribuito le borse asiatiche di cui prima parlavamo. Parigi più 1,44%, Francoforte 0,5 punto percentuale, Milano più 0,80%, euro su dollaro sempre fermo lì a 1,11. Tra i titoli, già ricordavamo, Buzzunice in più 3,40, Campari più 3,30, Telecom più 2,80, Ubibanca più 1,60, Unicredit più 1,60 anch'esso, come la Pop Milano e Mediaset. Delle banche, dei controlli della BCE, della ricapitalizzazione, ripatrimonializzazione, parleremo più avanti, quindi salterà il tema. Vorrei sapere che è successo su ST Microelectronics, meno 4,4%. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Qui c'entra ancora un po' diciamo l'Asia e in particolare anche la Cina, perché durante una conference con gli analisti a New York, il CFO, quindi il direttore finanziario di ST, Carlo Ferro, ha espresso delle importanti preoccupazioni per l'impatto delle scorte cinesi nel secondo semestre. In sostanza teme che le aziende cinesi facciano meno scorte di chip e che quindi possa diminuire il fatturato, le vendite complessive di ST proprio in questa regione del mondo. Chiaramente una prospettiva preoccupante per il gruppo che è stata ampiamente scontata dal titolo in borsa. Ancora, per quello che riguarda gli altri titoli, Eni oggi è risalita, abbiamo raccontato le parole di Descalzi, il costo dello sviluppo abbastanza basso del giacimento, Fiat Chrysler e poi fuori dal listino principale Safilo. Fiat e Pininfarina, così facciamo tutto. Ok, Fiat Chrysler continua a crescere, guadagna l'1%, ma durante la seduta era arrivata anche a segnare più 3%, infatti comunque le borse hanno chiuso sui minimi di una giornata che era partita con un più 2% per il FTSE MIB. Torniamo a Fiat Chrysler, chiude con un buon rialzo, continuano le indiscrezioni, le speculazioni del mercato su una fusione con General Motors, un consolidamento quello del mercato automobilistico che non solo secondo il CEO di Fiat Sergio Marchione, ma secondo un po' tutti gli esperti del settore è ormai inevitabile. Per quanto riguarda invece i titoli fuori dal listino principale, sale Pininfarina che chiude con più 1,9%, c'è sempre forte attesa per la vendita della società agli indiani di Mahindra, una vendita che ormai dovrebbe essere diciamo alle porte, se ne parla da mesi ma siamo in fase di chiusura. Anche Safilo guadagna l'1,7%, qui si festeggia il nuovo accordo di licenza per gli occhiali Havaiana, su un accordo che durerà fino al 2021 e rinnovabile di comune accordo. E qui appunto notizie di mercato, visto che citavamo già i migliori e peggiori della giornata, segnalo che la centrale del latte di Torino fa il più 8,17%, poi c'è Prima Industrie più 4,24%, Renault più 4,20%, Mondadori più 4%, fronte opposto IKF meno 6,50%, Tewin meno 5,12%, Premuda meno 4,80% e appunto, come tu ricordavi e commentavi, ST Microelectronics. Grazie anche a Ciao Condina di Radio Cori Sole 24 Ore. Dopo il GR24 ci occupiamo di quanto riporta anche oggi Sole 24 Ore, visto che già l'aveva anticipato venerdì scorso, sul piano europeo e i risultati degli esami della Banca Centrale Europea e poi il rapporto della Confcommercio sui consumi degli italiani. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Il segnale orario vi è offerto da... Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal padiglione Cibusa Italia, dove ci sono gli studi di Radio 24 all'Expo di Milano e dove trasmettono parecchi programmi, molti programmi di Radio 24 e trasmetteranno lungo tutta la settimana. Veniamo al tema presente oggi su Sole 24 Ore, che in qualche modo continua nel doppio binario di quanto già anticipato venerdì, e cioè l'ipotesi a cui starebbe lavorando il governo della Bad Bank, dove fare confluire con un sistema abbastanza complicato, ma insomma, i crediti deteriorati delle imprese, delle banche, scusatemi, verso le imprese. E dall'altro, però, oggi il Sole 24 Ore anticipa quello che sarà il risultato dell'analisi della Banca Centrale Europea sulle banche che lei va a vigilare direttamente dopo la riforma. Nel caso specifico dell'Italia sono 13 banche e tutte avrebbero superato il livello posto dalla BCE, ad eccezione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Marco, per quello che riguarda questo test, ricordiamo che aveva anche dei requisiti patrimoniali leggermente più severi rispetto alle precedenti verifiche. Noi abbiamo 13 banche, le principali, che sono sotto esame della Banca Centrale Europea. Come è andato il giudizio e perché diciamo che Veneto Banca e Popolare di Vicenza non hanno superato l'esame, nonostante siano finiti in classe 4? I voti andavano da 1 a 4, quello 4 era quello più basso, ma non sono le sole a essere finite in classe 4, perché c'è anche Monte dei Paschi e la Cassa di Risparmio di Genova. Marco. Sì, esatto, diciamo che si tratta di una materia abbastanza complessa, va inquadrata nella vigilanza unica europea che è entrata in vigore da novembre dell'anno scorso, ricorderete, con i famosi stress test AQR che ci avevano impegnati per mesi. Da allora, quindi parliamo dell'autunno 2014, la Banca Centrale Europea ha avviato un monitoraggio costante sulle oltre 100 banche vigilate dirette, che in questo momento coincide con diciamo un check-up sulle condizioni patrimoniali. Come tu accennavi, quattro classi, è difficile dire, come dire, bocciate o promosse. Si può dire chi è già in regola con i nuovi requisiti patrimoniali aggiornati e mediamente elevati posti dalla BCE. E come giustamente dicevi, le uniche due banche che al momento non risultano essere, diciamo, soddisfare, essere al di sopra di quei requisiti patrimoniali, sono Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che tuttavia, questo è comunque un elemento importante, hanno in cantiere aumenti di capitale che dovrebbero, nuovi aumenti di capitale che dovrebbero essere portati avanti all'inizio del 2016, con i quali, dice la BCE, dovrebbero portarsi in regola. Quindi, come dire, sono promosse virtualmente nel caso in cui gli aumenti di capitale si facciano e ovviamente vengano sottoscritti. Allora, visto che citavo la classifica, diciamo anche che nessuna delle banche italiane è in classe 1, quello più alto, solo Banca Intesa San Paolo con un Common Equity Tier 1 ratio del 13,5%, per chi vuole conoscere i dettagli, comunque solo Intesa San Paolo è in classe 2, le altre banche, ad eccezione di quelle nominate prima, si trovano in classe 3, sono UbiBanca, Mediobanca, Banco Popolare, Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Popolare di Sondrio, Unicredit e Icrea. Allora, e questo per dare, diciamo, lo scenario complessivo. Oggi incontro a Roma tra la Commissaria Europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, e il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Il tema è quello della Bad Bank. Non ci si aspetta che arrivi nulla di risolutivo, anche perché già ieri la commissaria della concorrenza aveva detto: attenzione, sulla Bad Bank italiana non siamo in alcun modo vicini alla conclusione, quindi sarà presumibilmente un incontro interlocutorio. Però ricordiamo anche quanto citato da Sole 24 Ore Marco, quale sarebbe il progetto a cui lavora il governo, ossia creare una società che dovrebbe mettere delle obbligazioni garantite dal tesoro per fare che cosa, Marco? Esatto, una società che finanziandosi sul mercato con obbligazioni garantite dal tesoro, e proprio questa garanzia è uno dei punti contesi, perché si deve chiarire se si tratta di aiuto di Stato oppure no, e nel caso in cui fosse aiuto di Stato si aprirebbe un iter molto articolato, ed è quello che vuole evitare evidentemente il governo. Ebbene, questa società veicolo che cosa farebbe? Acquisterebbe a prezzi di mercato, e questo è un altro elemento importante, grossi portafogli di crediti non performing dalle banche, alleggerendole quindi di una parte più o meno ampia, si vedrà, di quei 300 miliardi di crediti deteriorati in vari stadi, che poi sono uno dei problemi, come dire, che dall'altro lato emergono quando la BCE fa i test, perché evidentemente più crediti deteriorati hai in pancia, più li devi spesare con accantonamenti, e questo erode patrimonio e dall'altro lato anche limita la capacità di fare nuovo credito. E diciamo che a quel punto, se passasse il progetto del governo, veramente le banche non avrebbero più altri motivi per non erogare credito se non appunto una sana e prudente gestione, perché hanno avuto e hanno garanzie di liquidità e flussi di liquidità dalla Banca Centrale Europea, hanno questi incagli, queste sofferenze che li obbligano a mettere, come tu ricordavi, da parte, accantonare dei soldi, proprio perché questi crediti si ritengono inesigibili. Se venisse sollevata anche da questo aspetto, il mondo bancario avrebbe, obiettivamente, non avrebbe più scuse per non tornare a finanziare in maniera significativa l'economia. A proposito del mondo bancario, faccio notare che oggi UbiBanca ha annunciato di un'accelerazione per la trasformazione in società per azioni. Tutte le banche popolari coinvolte dalla riforma del governo, quelle con 8 miliardi, con più di 8 miliardi di patrimonio, dovranno trasformarsi in SPA e quindi perderanno le caratteristiche, ne abbiamo parlato molte volte, delle banche popolari, voto capitario, quota minima e quant'altro. UbiBanca sta già accelerando, la proposta verrà presentata il prossimo 10 ottobre a Brescia, di trasformare la banca in una SPA. La nuova UBI trasformata in società per azioni avrà per 24 mesi, ossia fino al 26 marzo 2017, un limite al diritto di voto pari al 5% del capitale sociale, e quindi resterà un limite come diritto di voto. E per quello che riguarda un'altra banca invece, che tutti si aspettano si sposi, si fonda con un altro istituto, mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. Oggi il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Marcello Clarici, ha detto: siamo tutti concentrati sulla nomina del nuovo presidente, in questo periodo manca poco, noi faremo la proposta in assemblea e dopodiché potremmo ragionare sul tema delle aggregazioni. Resta con noi Marco, perché c'è un'altra domanda che ti volevo fare sul tema del cosiddetto bail-in, che dovrebbe arrivare, che non è un'espressione genovese, che dovrebbe arrivare domani al Consiglio dei Ministri convocato per le 18, e ossia è lo strumento che serve per decidere cosa fare quando l'azzeramento del capitale non è sufficiente a coprire le perdite. Tradotto vuol dire chi viene coinvolto e chi paga nel caso di una banca che non riesce ad avere i requisiti patrimoniali ed è, diciamo, al fallimento. Dopo il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Vorrei concludere con Marco Ferrando sul tema del bail-in, che è possibile che arrivi sul tavolo del Consiglio dei Ministri già da domani e deve recepire sostanzialmente la direttiva europea. È importante perché chiarisce a tutti che cosa capita quando una banca, io dico con un'espressione, insomma, salta per aria. Marco, è il modello un po' Cipro, no? Quello riadattato che poi ha preso piede, prego. Sì, esatto, questo è il quello di cui discuterà domani il Consiglio dei Ministri, è proprio l'adeguamento l'approvazione dei decreti che fanno sì che l'Italia si adegui alla normativa europea, che scatterà dal 1 gennaio 2016, che fa sempre parte del nuovo impianto di cui parlavamo prima e che vede coinvolte anche la BCE. In sostanza, dal 1 gennaio 2016 una banca che avrà un patrimonio netto negativo di fatto entrerà in procedura di liquidazione coinvolgendo tutta una serie di diciamo di leve, e quindi si partirà evidentemente con gli azionisti, via via gli obbligazionisti, i creditori, ma anche i depositanti oltre i 100.000 euro, nel senso che i depositi fino a 100.000 euro saranno tutelati. Certo. Questa è la novità. Infatti obbligazioni subordinate, poi quelli ordinari, conti correnti nella parte che c'è 100.000, solo a quel punto interverrà la collettività, diciamola tutta, no? Per cui esattamente. Per cui è il nuovo modello nel caso di situazioni difficili e critiche in una banca vigilata dalla banca centrale. E questo è il motivo, sì, per cui il governo sta, cioè il governo in realtà la vigilanza sta studiando di salvare prima del 2016 alcune situazioni un po' traballanti, tipo Banca Marche, Cassaferrare, Trurio, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ed è anche il motivo per cui, così come anche per dire il governatore Visco ha detto ancora nei mesi scorsi, ci vuole molta attenzione sia da parte di chi offre prodotti sia da parte di chi sottoscrive. Grazie Marco Ferrando. E del Sole 24 Ore, come promesso, ultimo tema adesso, il rapporto del Centro Studi Confindustria, prima che iniziano le polemiche, del Centro Studi Confcommercio, scusatemi il lapsus, prima che iniziano le polemiche, non mi sembra che la Confcommercio possa essere accusata di essere filo governativa e che il mondo dei commercianti italiani sia un mondo di entusiastici, ottimistici che tirano la carretta al governo, lo dico perché immagino già le obiezioni. In realtà il rapporto di oggi sui consumi degli italiani è un rapporto positivo, e poco fa è arrivato anche un tweet del Presidente del Consiglio. Partiamo dal rapporto, che cosa dice in sostanza? Dice che il dato sui consumi di luglio, senza voler festeggiare perché una rondine non fa primavera, non fa neanche estate in questo caso, però il dato dei consumi a luglio è stato il migliore dal 2010, il più 2,1% rispetto al luglio del 2014. Ha anche degli elementi positivi sul dei segnali incoraggianti, li definisce, sull'andamento dell'occupazione. Il tweet del Presidente del Consiglio recita: la crescita dei consumi è un altro segnale che l'Italia riparte. Dottor Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Ora, io tutto posso dire di lei tranne che lei sia un ottimista. Se dovessi usare, diciamo, gli elementi zoologici, ma di cui noi abbiamo anche il copyright, direi che delle volte più gli elementi zoologici di Renzi, direi che delle volte lei è più un gufo che una cicala, però insomma il vostro rapporto segnala in maniera molto oggettiva alcuni elementi di progresso che speriamo vengano strutturati. Bella. Ma mi pare che, insomma, sarebbe anche sciocco negare che un po' di ripresa c'è, che poi uno debba interpretare il fatto che il nostro indicatore sui consumi dica più di 1% rispetto a luglio 2014 come elemento di ottimismo, secondo me è sbagliato. Non c'è né ottimismo né pessimismo. Anche perché ricordiamo che il 2014 è uno degli anni più peggiori in termini di consumo nella recente storia economica repubblicana. Quindi, diciamo, ci vuole non un miracolo per raggiungere questi risultati. Tuttavia, se consideriamo produzione industriale, fatturato di servizio, occupazione, fiducia delle famiglie, fiducia delle imprese e consumi, non possiamo non vedere che sono tessere di un puzzle che dice: lo scenario italiano volge al bello. Che poi sia merito del governo, merito dei piani di produzione dell'Arabia Saudita che sono laschi e quindi ci fanno pagare il petrolio di meno, questa è una cosa, diciamo, meno interessante. Nella mia visione i governi possono predisporre quadri efficaci affinché i lavoratori e gli imprenditori costruiscano la ripresa. Mi limiterei a questo in termini di valutazione dell'opera del governo, che pure dal punto di vista del Jobs Act o degli 80 euro comunque qualcosa ha fatto. Secondo noi bisogna però fare molto di più, perché questa ripresa buona non è ancora sufficientemente robusta, cioè non possiamo abbassare la guardia, ecco, sul futuro prossimo. E tra l'altro anticipo che noi avremo ospite chi ha elaborato uno studio su come questi 80 euro sono stati poi effettivamente utilizzati dagli italiani. Ma restando sui temi che voi rilevate oggi nel nel vostro rapporto, segnalate anche un andamento insomma oggettivamente positivo degli occupati al netto dei fattori stagionali. Sì, ma questi sono i dati dell'Istat. Ora, noi abbiamo vissuto come italiani 4-5 mesi difficili, di polemiche, no? I numeri che il Ministero del Lavoro ha fornito in modo impreciso, il fatto che l'INPS, Ministero del Lavoro e Istat forniscano numeri che non so. È così, si dovrebbero parlare un pochino meglio, però in questo oggi diciamo sono in gente o no una visione positiva. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i numeri dell'occupazione e li abbiamo guardati diciamo tutti insieme, 7 mesi tutti insieme, e il trend è crescente. È chiaro che la strada da fare per recuperare quello che abbiamo perso è lunghissima. Dobbiamo recuperare diciamo 1 milione di posizioni, ne abbiamo recuperati in un mese 44.000. Ma se diciamo il dato congiunturale lo valutiamo sempre alla luce di un triste passato settennale di crisi, sì, certo. E allora io mi domando quando è che uno deve dire c'è la ripresa, quando ci recuperiamo tutto il 1 milione di posti di lavoro o l'11% di PIL e consumi che abbiamo perso. E allora così voglio dire possiamo sospendere questo tipo di ragionamento per 4-5 anni sperando che le cose vadano bene, e così poi tra 5-6 anni diciamo ecco siamo tornati ai livelli del 2007. No, ma questa è un'obiezione infatti a mio avviso assurda, anche perché uno può dire c'è una ripresa in corso e come dice il termine non vuol dire che tu sia tornato o stia bene o sia tornato nemmeno minimamente ai livelli del 2008, vuol dire solo che stai riprendendo a crescere dopo che calavi da 13 trimestri consecutivi quanto a PIL. Sono due cose che stanno assieme, se uno le cose non le vuoi vedere col parocchi, perché se tu dovessi essere buttato in politica, vabbè, lasciamo stare. Poi un'obiezione fatemela fare, qui non è un problema di essere renziani o anti-renziani, qui è un problema di augurarsi che questi dati vengano consolidati, che non sia il rimbalzo del gatto morto, che non sia un po' di consumo in più perché troppo li avevamo compressi o un po' di imprese che assumono sfruttando solo anche lì alcuni elementi di compressione, aspettavano il Jobs Act per assumere. Speriamo che sia un cambio di rotta. E qui non è problema di essere renziani o anti-renziani, non me ne frega nulla di Renzi, il problema è di tifare per l'Italia oppure no, perché se poi aumentano gli occupati e aumentano i consumi, riparte l'economia nostra, non è che riparte l'economia di Renzi, abbiate pazienza, non si può sempre ragionare con i parocchi. Mi dia una previsione per i prossimi 6 mesi in un minuto, Bella. Dunque, noi riteniamo che se non succedono disastri straordinari e quindi sono fuori dal novero degli eventi prevedibili, dovremmo consolidare questa tendenza e quindi chiudere, noi confermiamo le previsioni di marzo, chiudere come PIL e consumi oltre l'1% già nel 2015. La vera sfida è trasformare il 2016 in un anno non da 1,2 a 1,3, ma cercare di avvicinarsi al 2%. Come? Essendo più coraggiosi sul taglio della spesa pubblica improduttiva che va trasformato, questo taglio, in una maggiore riduzione di imposte rispetto a quello che il governo sta prospettando. Cioè oggi ci sono le condizioni per puntare tutto sulla trasformazione della ripresa in crescita. È una scommessa che dobbiamo vincere, come diceva lei prima. Sì, tra l'altro devo dire che se verrà confermato un PIL più alto delle attese del governo, questo lascerà anche qualche margine in più, se non sarebbe già giocato il governo con gli annunci sulle tasse, per un deficit più alto. Il rapporto, lo spiega ogni volta che interessa, è il deficit fratto, come si diceva a scuola, il PIL. Se aumenta il denominatore puoi permetterti un deficit leggermente più alto. Nel ringraziare Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, spiego che il rimbalzo del gatto morto è un'espressione che si usa nei paesi anglosassoni per giustificare alcuni rialzi di borse che sono solo dei rimbalzi, non dei rialzi. Si dice che se lanci un gatto dal grattacielo, questo quando atterra rimbalza, ma non è che sia proprio vivo, non è un segnale di una ripresa. E con questo vi ringrazio, auguro a tutti una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi qui dall'Expo, dal Cibus a Italia, per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.